parte la nuova stagione, mi pare che andiamo incontro alla numero 26, siamo con Francesco Bettini, un po' stanco e provato, ma sempre puntuale. Buongiorno Francesco. Eccolo qua. Beh dai, un po' stanco e provato è normale, perché quando si fa tardi la notte, si sveglia presto la mattina, però mi devo riabituare a fare così, perché quando si entra nel vivo della stagione concertistica del Jazz Club, con almeno 3 concerti alla settimana e annessi e connessi, questo è il bioritmo sostanzialmente. È la 26esima ed è il 25esimo anno, siamo in piedi e si apre poi appunto il 26esimo. E avevamo fatto una stagione lo scorso anno, diciamo in qualche modo celebrativa, alzando leggermente l'asticella per quelle che sono le nostre possibilità e dal punto di vista, diciamo, del palinsesto artistico ed anche del numero dei concerti. E però ci abbiamo preso gusto e quindi continuiamo esattamente così, anzi c'è una ripartenza che è veramente notevole, con 2 bordate da 4 serate, una dietro l'altra, giovedì, venerdì, sabato e domenica, e con alcuni concerti extra che segnalo per primi, perché c'è una certa consuetudine a frequentare il luogo soprattutto venerdì e sabato, e invece avremo giovedì di riapertura come concerto in inaugurale il quartetto di uno straordinario sassofonista di giovane generazione di New York, che ha già vinto tutti i premi possibili e immaginabili dalle riviste specializzate americane, che si chiama Emmanuel Wilkins, e presenta in anteprima, perché è la prima data europea, il nuovo disco per la storica etichetta Blue Note Records, e questo è giovedì 3. Poi faccio un salto a domenica 5, no 6, che è un'altra serata extra rispetto alla nostra normale programmazione e cadenza, e con il trio di Ronnie Foster, che è uno dei padri dell'acid jazz, tastierista, organo Hammond, esatto. Una sua cover di Let's Stay Together è nella storia. Sì, e poi ha collaborato con Stevie Wonder, con George Benson lungamente, insomma è una delle icone, diciamo, del soul jazz, del funk degli anni 70, che poi ha proseguito rilevantemente la carriera. Anche lui è rientrato in casa Blue Note Record, quindi è una tournée addirittura promossa proprio dalla storica etichetta discografica. Di nuovo il giovedì successivo, quindi il 10, aspettiamo come serata extra rispetto alla normale programmazione il quartetto di Peter Erskine, che è un altro grande musicista, notissimo per essere stato il batterista del Weather Report, ma poi per altri 1000 progetti. E questi, diciamo, non sono necessariamente gli highlights, perché poi tutti i sabati sera in particolare, ma anche molti venerdì, ci sono artisti internazionali. Continuiamo a guardare comunque alla scena nazionale e continuiamo ad alimentare anche quella, diciamo, più legata al territorio e a tutti i progetti che ruotano attorno al collettivo istantaneo, di cui fa parte la nostra big band, e da cui nascono poi tanti altri progetti, anche discografici. E quindi, come dire, da una parte si alimenta l'humus della comunità che ruota attorno al Torione, e dall'altra si dà visibilità a importanti musicisti internazionali e nazionali. Parliamo un po' all'interno di casa nostra, allora. Hai parlato di istantanea, che continuano le collaborazioni, e si continua anche chiaramente con uno sguardo di collaborazione con il Conservatorio, e lo spazio sarà adibito a questi incontri. Assolutamente, allora c'è una convenzione con il Dipartimento Jazz, ma con il Conservatorio tutto di Ferrara, tale per cui da novembre a giugno si utilizzeranno come aule studio, soprattutto per le lezioni, diciamo, più ampie, quindi piano complementare, musica d'insieme, tecniche di improvvisazione, vi dicendo, la sede del Torione. Questo fa vivere gli studenti all'interno già di uno spazio che diventa un loro spazio, sia come fruitori durante i concerti, ma anche come protagonisti nell'ambito della jam session e soprattutto nell'ambito di questa rassegna, nella rassegna che copre i primi 4 venerdì di ottobre, che si chiama Fresh and Bold, un po' scimmiottando il fresco balli, e che vede impegnati i docenti interni, gli studenti, in diversi progetti originali, e dei docenti esterni chiamati per fare dei workshop, che anch'essi si svolgeranno all'interno del Torione nelle giornate precedenti a questi venerdì. Ti ho visto impegnato in illeciti traffici, immagino musicali, col presidente del Bologna Jazz Festival, Federico Mutti, e quindi immagino che ci saranno collaborazioni con altri cartelloni. Esattamente, rinnovatissimo questo ponte che c'è tra Ferrara e Bologna durante il Bolognese Festival, e sotto traccia però lo sarà con Crossroad in primavera, con assoluta certezza, perché diciamo siamo partner da tantissimi anni. Continuiamo le partnership con Seven Virtual Jazz Club e col Conad Jazz Contest di Umbria Jazz per ospitare i vincitori di questi contest, uno online e uno, diciamo, in presenza, quindi dare spazio a giovani musicisti emergenti di qualità e di valore. Poi, ripeto, sotto traccia ce ne sono tante altre collaborazioni, perché anche nell'ambito di quando si costruiscono, diciamo, le date del palinsesto, tante volte un po' per abbattere i costi, un po' per creare la disponibilità a un musicista di venire in Europa o in Italia, essendo già magari in tournée in Europa. Noi lavoriamo sempre a stretto contatto, non so, con Dai The Jazz di Forlì, con i locali di Bologna, che, con i quali poi si collabora anche durante il Bologna Jazz Festival, con Piacenza Jazz, per dire, in alcuni casi, con altri festival che contemporaneamente alla nostra lunga stagione hanno la loro, diciamo, lasso temporale in cui prendono forma, e in questo caso con Padova Jazz, perché fondamentalmente questo aiuta tutti a costruire una piccola circuitazione per musicisti che sarebbe da soli impossibile, sarebbe impossibile chiamarli da soli, insomma. La Jam procederà con appuntamenti? Dunque, in diversi venerdì sera, soprattutto quelli del conservatorio, che le cui jam session saranno aperte da dei combo degli allievi dopo il concerto ufficiale, ma anche altri successivi, assolutamente sì, e poi la domenica sera in coda ai concerti istantanei. Chiaro è che si tratta di iniziative, come dire, estemporanee. Sì, esatto, al 100% avverranno i primi 4 venerdì di ottobre, poi dipende, insomma, da quello che succede, ed è anche la sua fascia, cioè tanto la programmazione c'è, poi se si innesca tanto meglio, insomma. Certo, una piccola divagazione bullata: è uscito il disco dopo 30 anni della formazione Galliano, esponente acid jazz di grande rilievo. Arriva Ronnie Foster al Torrione, insomma, ho speranze. Beh, tu che sei un cultore, diciamo, di quel mondo espressivo, certo, e come? Speriamo, adesso vediamo. Parli di Galliano? Eh certo, no, vabbè, adesso di Galliano, in generale. Sì. Ah, ok. Vediamo. Io tra l'altro non sapevo neanche questa cosa, perché non è che sono onnipresente. Ci stiamo lavorando. Beh, adesso oggi sarei stato molto onnipresente a letto, volentieri. Intanto io ti auguro una buona stagione, ci vedremo, e una buona giornata. Grazie della disponibilità. Grazie a te, William.